questa diretta di Radio Centrale con l'Onda in Onda. Io purtroppo non riesco bene a sentirmi, ma spero che voi mi riusciate a sentire perfettamente. Ci ritroviamo in questa nuova puntata oggi, diciamo un po'. Grazie, perfetto, il nostro regista. Adesso mi sento anche molto bene. Questa diretta del palinsesto di Radio Centrale del mercoledì. Come ogni puntata, noi ci siamo sempre occupati di temi, diciamo, giovanili, scherzosi. Questa puntata invece ci occupiamo di un tema più serio, perché ci ha seguito su Facebook già lo sa. Parleremo appunto della questione del gioco d'azzardo e della ludopatia nella città di Termini Imerese. Prima di iniziare e di presentare i nostri ospiti qui in studio, diamo i contatti. Allora, potete seguire e commentare la nostra puntata su Facebook all'indirizzo facebook.com/ondainonda, all'indirizzo twitter.com/ondainonda, siamo monotematici. Potete mandarci i vostri sms o telefonare in diretta al 339 86 23 955. Ripetiamo, 339 86 23 955. Bene, allora presentiamo gli ospiti che ci sono in studio. Noi attendiamo ancora il sindaco di Termini Imerese, Salvatore Burrafato, che è stato invitato in questa puntata e ha detto che sarebbe venuto. Lo aspettiamo a minuti. Intanto presentiamo il dottor Michele Iacono, un pedagogista. Fabio Dasaro, un nostro amico che ha condotto uno studio, diciamo così, alla femminile, come si suol dire, sul studia matematica, diciamo, l'ha condotto basandosi sulle statistiche del gioco d'azzardo nello stato italiano. E poi il consigliere Antonio Gatto, a cui diamo il benvenuto. Prima di iniziare la puntata, partiamo subito con la nostra sigla. Bene, ritorniamo a questa diretta. Allora, come anticipato nell'anteprima, ridiamo i contatti prima di tutto, in modo tale che chi si sta collegando solo adesso potrà può interagire con noi. I nostri contatti sono facebook.com/ondainonda, twitter.com/ondainonda, al quale potete commentare la puntata con l'hashtag ondainonda, appunto. E oggi ci occuperemo del tema delle ludopatie e del gioco d'azzardo a Termini Imerese. Ripresentiamo gli ospiti che sono con noi: il dottor Michele Iacono, pedagogista. Benvenuto, dottor Iacono. Grazie, buonasera. Buonasera. Fabio Dasaro e il nostro consigliere Antonio Gatto. Adesso ci senti, Antonio? Sì, ora ti sento. Però avvicinati al microfono, sennò noi ti sentiamo. Caro, ora ti sento. Bravissimo. Benissimo. Adesso ti sentiamo anche noi benissimo. A me buonasera non l'hai fatto dire. No, io te l'avrei fatto dire per ultimo, proprio come... Però puoi dirlo. Prendi. Buonasera a tutti. Buonasera, Fabio Dasaro. Allora, iniziamo questa puntata. Io direi di, aspettando il sindaco, di spiegare un attimo le ragioni di questa puntata. Noi dell'Onda in Onda ci siamo sempre stati vicini ai temi della città, soprattutto anche come radio e staff di Termini Imerese, notando quali sono i problemi all'interno della città. Una cosa che ci ha colpito molto è appunto questa tematica del gioco d'azzardo. Io inizierei la puntata rifacendomi un po' a un evento che c'è stato l'anno scorso, se non ricordo male, un evento a luglio, che ha portato un po' alla conoscenza diretta di anche chi non aveva mai preso una vera coscienza. Sicuramente parte della possiamo dire dell'amministrazione, insomma, di chi amministra la città lo ricorderà. Toglietemi il feedback, grazie. L'anno scorso è stato presentato un progetto da Palazzo Riso. Questo progetto venivano coinvolti 5 artisti di arte moderna per dividere le loro arti all'interno di varie città, studiando il territorio. Uno di questi è stato incaricato di vivere la città, viversi la città di Termini Imerese. Lui si chiama Flavio Favelli, io l'ho seguito su YouTube, lui è molto appassionato di insegne luminose. Lui, vivendo la città di Termini Imerese, poi ha fatto un'esposizione che è stata messa a luglio sulle mura del municipio e dava proprio, è stato un messaggio molto forte, in quanto le insegne che lui ha messo per rappresentare la città erano quelle dell'Alfa Sud e l'insegna del Totocalcio con 1x2. E lui dichiara, ho trovato questa intervista in cui dice: non ho mai visto così tante ricevitorie per giochi d'azzardo come a Termini. Questo dà da pensare, cioè una persona che viene da fuori, addirittura un artista che coglie il senso della la difficoltà della città, mettendo in contrapposizione queste due realtà, quindi l'Alfa Sud, il lavoro, la Fiat, e poi il gioco d'azzardo, quindi come la speranza che hanno i termitani di trovare un futuro con questo gioco, fa un po' pensare, nel senso che chi arriva da fuori vede effettivamente quante ricevitorie ci sono a Termini, quanto è forte il gioco d'azzardo nella città di Termini stessa, se poi lo paragoniamo a un dato più nazionale, dove il gioco d'azzardo ormai è diventato quasi una manovra finanziaria per gli introiti che riesce ad avere. Io vorrei iniziare a parlare il dottor Iacono con un po' di dati che lui ha raccolto proprio su questo fenomeno di Termini. Dottor Iacono. Sì, grazie. Allora, sicuramente la cosa che raccontava Andrea è interessante, però vorrei subito dire una cosa, che il problema del gioco d'azzardo, evidentemente l'artista l'avrà notato dalle tantissime ricevitorie a Termini, ormai un sistema diffuso in tutta Italia, altrimenti non si spiegherebbero le circa 700.000 persone che sono in qualche modo patologicamente, no, le mettiamo tra virgolette, insomma, colpite da questo dramma. Il ministro Profumo recentemente ha parlato addirittura di 1,5 milioni di persone e vuole lanciare infatti una campagna di prevenzione nelle scuole. I nostri dati sono grosso modo simili, nel senso che probabilmente ha notato l'artista che è venuto qua nella nostra città, ha notato tante ricevitorie. Sicuramente il problema poi in Meridione è sempre molto più complicato, perché la mancanza di lavoro e tanti altri fatti determinano ancora di più questo tipo di atteggiamenti e altri. I dati sono quelli, i dati Istat, parliamo di 60-70 miliardi spesi circa l'anno scorso di euro, e il fisco ha beneficiato di quasi 8 miliardi di euro, quindi stiamo parlando di cifre enormi, quasi una finanziaria. Lo stesso Stato proprio recentemente, 2 giorni fa, sta concedendo altre 2.500 licenze per sale gioco, quindi parliamo di sistemi un po' contraddittori che fanno impazzire poi soprattutto noi. Io lavoro in un servizio per le dipendenze patologiche, per cui ci dicono da una parte di fare la prevenzione, poi contemporaneamente poi assistiamo appunto a questo, come dire, questo dramma. E in Sicilia c'è un dato che è abbastanza, insomma, preoccupante, perché circa il 6,5% del reddito familiare viene speso in gioco, quindi parliamo di cifre consistevoli, da 500 a quasi 1000 euro parliamo al mese, quindi sono soldini che vengono materialmente buttati. Sicuramente la situazione economica mondiale, nazionale e nostra, poi della nostra terra, è ancora più preoccupante, e dato poi drammatico anche delle nostre realtà industriali povere che da ben poco. E si nota anche questo fatto che soprattutto i ceti meno abbienti, no? Sono quelli che poi spendono in realtà di più. Un po' tutti, se andiamo un po' in giro, vediamo anche per i bar, per i tabacchini, eccetera, eccetera, vedere giocare uomini e donne di una certa età davanti a questi schermi allucinati, sembra quasi ormai diventata una droga. In realtà è una droga, perché poi, tra l'altro, se vogliamo entrare anche nello specifico, colpisce proprio esattamente alcune proprio zone, se vogliamo dire, del cervello, che danno questa compulsività al gioco, che vengono, tant'è vero che li identifichiamo con, noi abbiamo un termine che poi è gioco d'azzardo, cioè il GAP, addirittura esistono dei servizi sia a Termini Imerese che in tutta Italia, addirittura ci sono circa 200 centri che si occupano in maniera specifica della patologia acclarata. E noi, voglio dire, anche a Termini viviamo questo dramma. Noi attualmente abbiamo, anche se il numero può sembrare piccolino, ma sono persone che poi girano, quindi poi ritornano, se ne vanno, eccetera. Attualmente abbiamo 3 persone in cura, e qui parliamo di grosse cifre. Persone che, tre persone che hanno, si sono sottoposte, quindi si sono sottoposte venute, perché spinte poi soprattutto dai familiari, quando si accorgono che qualcosa comincia a non funzionare, i soldi in banca non ci sono più, e questo è il dato più drammatico. Poi invece ci sono le piccole realtà dove magari si consumano anche quelle, i 50, i 60, i 70 euro al giorno, che comunque sono soldini, considerando sempre come dire, il reddito medio di una persona che può lavorare, un operaio, un impiegato e quant'altro. I dati sono impressionanti per quanto riguarda, io ho fatto stamattina una ricerca, esistono qualcosa come 300-400 mila macchine slot machine. Sì, a Termini più o meno dovrebbero essere, noi abbiamo fatto un rapido calcolo, dovrebbero essere di una densità di 50, di una macchinetta ogni 50 abitanti. Ecco, quindi già siamo là. Esistono 16.000 punti dove poter giocare, ci sono insomma dei dati che restiamo un po' perplessi, perché in effetti a tutte le altre patologie che già noi, di cui noi ci occupiamo, che sono la tossicodipendenza e quant'altro eccetera, le disturbi alimentari, si è venuto anche ulteriormente, come dire, si è appesantito ulteriormente il carico, perché si sta creando ulteriormente questa cosa, complicandosi ulteriormente col fatto che, al di là dei locali pubblici dove comunque ancora esiste un minimo di rapporto fra le persone, ora c'è anche internet, e questo è un altro tasto, come dire, molto dolente. Tra l'altro noi come servizio abbiamo fatto una ricerca longitudinale che parte dal 2009 al 2012, stiamo completando proprio in questi giorni la ricerca, che riguarda un campione di circa 1530 ragazzi dai 12 ai 21 anni, con dei dati molto preoccupanti, al di là poi del in maniera specifica del gioco d'azzardo, ma questo in qualche modo ci dice qualcosa. Sì, io invece volevo anche approfondire, prima di passare la parola al consigliere Gatto, spiegandogli poi qual è la nostra proposta, o leggendogli qualcuna, a Fabio. Fabio, tu cosa hai scoperto? Noi abbiamo analizzato un gioco sì. Di quelli che si vedono sponsorizzati in TV, sì, che sì, era il 10 e l'8. Come funziona? Spiegacelo. Beh, cioè, allora, qual noi era? Siamo. C'è noi una siamo, fregatura di dietro. Sì. No, oddio, cioè, non la definirei. Sì, non c'è una fregatura. Però diciamo che c'è un. Vai, no, spiega tu, dai. Beh, no, niente, qualche settimana fa, direi, io e Andrea siamo andati a. Sì, sì, pronto? No, vicino al microfono. Sì, sì, sì. Sì, sì, io e Andrea siamo. Abbiamo provato per gioco, per scherzare, questo gioco, il 10 e l'8. Ci siamo piazzati davanti a questo schermo, un po' allucinati e niente, abbiamo provato, abbiamo giocato qualche numero. Questo gioco in sostanza permette di giocare un numero di cifre che va da 1 a 10. In base al numero di cifre giocate si vince, diciamo, in maniera differente. Permette di giocare differente. 10 numeri da 1 a 90. Sì, un massimo di 10 numeri da 1 a 90. Ne vengono estratti 20. Si vince in base a quanti numeri si prendono di quelli giocati, chiaramente. L'illusione dov'è? Il meccanismo, innanzitutto, è assolutamente ipnotico. Cioè, questo già noi, anche se diciamo, non siamo dei grandi giocatori, ci sentivamo un po' scioccati, un po' ipnotizzati, presi, da questo, sì, un po' presi da questo da questa specie di sogno, no? Di vincere tantissimi soldi, anche perché uno giocando, per esempio, 10 numeri vince anche se non ne prende nessuno. Vince anche se non ne prende nessuno. Beh, uno dice. Cavolo, è buono, cioè, no? Solitamente gioco a lotte, non mi escono mai, questa volta gioco e non mi escono e vinco. Ed è allucinante notare come tutto questo meccanismo sia messo perfettamente a punto per alimentare una sorta di illusione della vincita, chiaramente, che poi da un punto di vista prettamente matematico, se poi appunto vediamo quant'è la... la cosiddetta speranza matematica nel gioco del 10 e l'8 è di perdere circa 30 centesimi per ogni giocata di un euro. Cioè, praticamente giocando un euro, lo Stato automaticamente, che tu vinca o perda, ha vinto 30 centesimi. Questa è una cifra altissima. Tanto cioè, famoso, il 30% della vincita. Infatti Bruno De Finetti chiamava questa la tassa sugli imbecilli. Sì, citato, diciamo, no, non, lo ora, puoi citare tranquillamente perché era un grande studioso di calcolo delle probabilità italiano e statistica. Beh, chiaramente diciamo 30 centesimi. Strano, perché nei casinò questa cosiddetta speranza matematica è addirittura inferiore. Quindi, certo, paradossalmente uno giocando con lo Stato perde di più che giocando, perde più che giocando a casinò. Questa speranza, per esempio, nel gioco della cosiddetta bolletta, no? Quando, sì, uno si gioca le partite con gli amici, è di 10 centesimi, quindi del 10%. Uno perde in media 10 centesimi ogni giocata di un euro. Quindi, chiaramente tutto questo meccanismo è ben oliato per farti credere, però, che... Beh, certo, puoi vincere, tant'è, certo, che... Ma poi abbiamo fatto un altro studio, diciamo così, sempre alla fine. Sì, no, abbiamo girato un po' per Termine, abbiamo visto qualche anno fa, è stato... Sì, un anno fa, esattamente, abbiamo visto... Abbiamo contato una ventina, più di 20... Solo le ricevitorie erano, nella città di Termini, più di 21, più se di non 20, sbaglio. Più di 21, sì, sono cresciute negli ultimi tempi, quindi... Quindi abbiamo 21 ricevitorie, senza contare tabacchini, bar, che espongono poi le macchinette. Diciamo, questo è un dato abbastanza impressionante. Sì. Perché... Rifacendoci alle statistiche del 2008, perché ancora non erano uscite quelle del 2012, il volume d'affari era... Sì, che sono un po' quelle già discusse, di un volume d'affari di 60-70 miliardi annui al momento di giro d'affari. In sostanza ogni ricevitoria arriva a un giro d'affari di 6.000 euro. 6.000 euro al mese, quindi 6.000 euro al mese per ogni ricevitoria i cittadini italiani spendono per giocare. Antonio Gatto, intanto un commento su questa cosa che hai sentito, poi ti diamo la proposta, magari se il sindaco riesce a venire può anche farsi portavoce all'interno della giunta, oltre che... Dico, posso fare poi pure la controproposta, no? Puoi fare anche la controproposta, ovviamente. Io vorrei un attimo riniziare dal tuo intro, quando parlavi del noto artista che Favelli, a Termini ha fatto quest'opera d'arte. Sai chi la chiama arte? Per cioè, me arte era moderna, era un'oscenità, piacere o non piacere, perché posso dirlo che il luogo dove è stato fatto, devo dire che è stato deleterio per i cittadini, fatto direttamente nel palazzo comunale, e forse era, ecco, anche un po' indietro negli anni, perché quando tu metti l'insegna del tuo tip, il tuo tip rappresentava l'italiano medio, l'italiano che la domenica aveva il costume e la voglia di giocare insieme agli amici, che forse non era ludopatia, era proprio anche voglia di giocare e stare insieme, giocarsi quanto era la schedina allora. Era. Ecco, quindi stiamo parlando di nulla, sì. Però Antonio, scusa, spezzo una lancia a favore di Favelli, non lo conosco personalmente, ma prima di inserirlo, diciamo, come citazione, ho cercato qualcosa su di lui. Lui ha messo quello del tuo tip perché è un appassionato di opere d'arte moderna, soprattutto con le vecchie insegne. Addirittura va a cercarsele in America, quelle vecchie vengono messe in disuso. Quindi alla passione per le vecchie insegne, per questo ha messo questa qui, è quella dell'Alfa Sud, anche l'Alfa Sud era, però è una citazione, no, solo per spezzare una lancia, è una passione personale che poi è stata messa all'interno del Palazzo Comunale, proprio all'esterno come insegna al Palazzo Comunale, quindi è giusto che uno possa esprimere la sua idea. No, vabbè, certo, ma torniamo sul tema. Beh, devo dire che a Termini sono cambiati i costumi, il gioco d'azzardo ha cambiato totalmente i costumi. Sia dal punto di vista, ecco, proprio dei tabacchi. Io ricordo prima i tabacchi arrivato 8 e 30 massimo chiudevano. Adesso, ecco, col 10 e l'8 che citava l'amico Fabio, dura quanto? Fino alle 9 e mezza, sì, 10. Sì, sì. E già quindi, ecco, è cambiato anche l'orario, le regole. Mentre un padre di famiglia prima andava al bar magari a bersi la birra, giocarsi la schedina e tornare a casa, adesso vedi i padri di famiglia che fino alle 10 stanno dove? Nei tabacchini, a far cosa? A giocare. E devo dire che forse ancora a Termini c'è un velato senso di pudore, dove per esempio nelle macchinette non vediamo ancora le donne, cosa che si nota molto al nord Italia. Ho visto l'altro giorno un documentario proprio fatto dalle Iene, dove questo si nota maggiormente. E poi a termine ancora siamo i fannulloni, siamo gli uomini, possiamo dire, no? Quelli che ancora giocano, tentano la speranza. Speranza, come diceva Fabio, che realmente è vana in tutto quello che accade. Però, ecco, contestualizziamolo a Termini Imerese. In un clima di degrado in questo momento sociale, in un clima di degrado economico, visto che la Fiat ormai non c'è più, le aziende chiudono, ecco, e valorizzare ancora di più questa chimera della vincita facile è maggiormente deleterio. Dobbiamo capire innanzitutto noi cosa significa essere malato del gioco, come noi come consiglieri comunali, come amministrazione, e capire come noi possiamo intervenire. Io non credo molto nella prevenzione, capire, ecco, come noi possiamo incidere nel nostro territorio e far capire alle persone realmente quanto può essere vana questa speranza, questa illusione di vincere facile. Questo è l'obiettivo che secondo me noi ci dovremmo prefiggere. Se posso, prego. Allora, il discorso è molto interessante. Io la sposterei, sì, al fatto locale, ma è un problema ormai diventato di costume. Negli anni 60, 70, 80 la realtà del tessuto sociale italiano reggeva. C'era il lavoro, avevamo tutto sommato dei principi, poi non importa di destra, di sinistra, ma c'erano comunque delle chiare e nette differenziazioni. Si sono perse nel tempo, e si è perso perché questo nostro mondo dall'economia, basta pensare un po' quello che è successo, la finanziarizzazione ha fatto impazzire tutti. Il nostro è un paese che ha perso l'industria, ha perso la realtà concreta delle cose, si è buttato nelle cose fatue, virtuali. Di pari passo anche le tecnologie ci sono entrate anche in questo mondo virtuale, si è cambiato, si è modificato l'assetto sociale. Io voglio dare un dato che diceva il consigliere comunale, parlava di cosa possiamo fare. Io ho un dato drammatico: il 40% della ricerca che abbiamo fatto, abbiamo poi tra l'altro anche prodotto e consegnato a scuola, al comune e a vari altri enti, ci parla di un dato drammatico del 60% di ragazzi attaccati, cioè non si possono, incollati davanti al computer. Ma stiamo parlando di ragazzi sotto i 18 anni, quindi stiamo parlando di qualcosa di molto drammatico. Fabio alza la mano. Nel senso che parliamo di 5, 6, 7, abbiamo avuto in cura un ragazzo che stava 14 ore davanti al computer. Allora ci chiediamo, lì per esempio la funzione sociale educativa della genitorialità, dei genitori, sì, dov'è? Dov'è? Perché a un certo punto c'è un problema di regole. E c'è un bellissimo libro che invito a leggere tutti quanti, di Pellai, Alberto Pellai, che si chiama "Questa casa non è un albergo". E beh, era bella, credo che sia una bella cosa, cioè, nel senso che non è un albergo dove vado a fare quello che voglio, sì, a casa mia, però non è un albergo. Dovrebbero esistere, diciamo, no? Esistere un minimo di regole, soprattutto in una certa fascia d'età. Ma se noi già adulti abbiamo dei comportamenti, per esempio, appunto, andiamo nei bar, andiamo nei tabacchi, cominciamo a giocare in una certa maniera, addirittura magari diciamo anche al bambino: vammi a comprare due gratte e vinci. Ma è chiaro che il modello che diamo educativo è qual è? Ma sì, possiamo farlo, perché tanto nessuno si vergogna più. D'altra parte, se esistono trasmissioni televisive dove ognuno racconta le cose intime e personali, no? Anche le cose anche più brutte, vuol dire che forse qualche cosa non va. Un altro dato: il 40% dei genitori si lamenta in questa ricerca del fatto che i figli stanno là, ma non è che intervengono, ma non si fa niente, cioè, sono occupati a giocare al 18, quindi. Allora, sono cose contrastanti, ma è contrastante perché noi abbiamo un modello sociale che è così, ma non italiano, ormai è il mondo occidentale, sì, sì, che è spinto verso. Mi piace ricordare una cosa: esiste qualcosa a Tokyo, qualcosa come 100.000 ragazzi che vivono esclusivamente di notte. Cioè non sanno più cos'è il giorno, non sanno più cosa sono i rapporti con gli amici, non sanno più cos'è fare una passeggiata, andare a comprare un libro. Ecco, se questi sono i modelli, quello che noi talvolta sbagliando diciamo è il progresso, beh, non lo so, bisognerebbe ripensare un attimino anche a questi, a queste cose, perché poi il dramma è cos'è, per esempio, come li curiamo le persone, ma il problema non è appunto di curare le persone, prevenire. È prevenire, cioè cercare di non farle arrivare. Ma evidentemente bisogna aggiustare tutta una serie di cose che bisognerebbe camminare un po' insieme. Io parlo sempre di comunità educante, che non dovrebbe essere intesa in senso brutto. La comunità educante non è la scuola, non è la famiglia, ma è la scuola, la famiglia, il territorio, il comune, tutti gli enti preposti affinché soprattutto i giovani, i ragazzi più piccoli possano veramente poi crescere, affermarsi nella loro personalità e crescere veramente virtualmente come cittadini attivi. Il contrario di questo è quello che stiamo vedendo, è proprio questa dispersione delle personalità. Ormai siamo così disgregati che ormai non ce ne importa più niente, neanche appunto forse di perdere la faccia e metterci davanti in un locale e metterci là come allucinati a giocare sperando che una botta di fortuna, e invece in realtà si chiama un rinforzo negativo, perché invece costringe ulteriormente a spendere altri quattrini. Va bene, su questo facciamo un attimo di pausa, andiamo a Nero, ci ascoltiamo i Black Keys con Your Touch. Con Your Touch, ritorniamo in diretta su Radio Centrale, stiamo parlando di ludopatia e gioco d'azzardo a Termini, e diamo il benvenuto all'assessore Amoroso, assessore alle politiche sociali, che viene invece del sindaco, visto che lui non si sa degli impegni. Benvenuto assessore. Salve. Salve, allora, date tutte le... non so se lei ha sentito la puntata prima di venire qui, ma mi sa di no. No. L'abbiamo strappato un po' ai suoi impegni personali. Volevamo fare una proposta sulla base di quello che abbiamo letto che gli altri comuni stanno facendo per contrastare il gioco d'azzardo nella città di cui sono sindaci. Almeno, scusi, vabbè, volevo dire, i sindaci stanno facendo della città di cui amministrano. Bene, le proposte sono molteplici. Noi volevamo farne una che riguardasse la salvaguardia dei, dei giovani al gioco d'azzardo. Non possiamo fare molto, insomma, questo se ne devono occupare chi di dovere, le ASL, gli psicologi, eccetera. Ma una regolamentazione dell'apertura delle sale scommesse entro 500 metri dalle scuole, ad esempio. E poi una campagna di sensibilizzazione e di prevenzione ai giovani, sempre delle scuole, per contrastare il gioco d'azzardo, come si fa per le droghe. Perché l'amministrazione non prende, l'amministrazione o il consiglio non prende carico questa proposta e magari la riusciamo ad attuare in tempi brevi? Credo che almeno per quel che riguarda una sensibilizzazione nelle scuole non ci voglia molto. Poi per la seconda, no, quella dei centri scommesse, magari è un po' più complicato, non lo so, ditemi voi. Bene, salve a tutti, io sono l'assessore alle politiche sociali. Che dire, per quanto riguarda il gioco d'azzardo, penso che il primo da porre sul banco dell'imputato è lo Stato. Voi chiedete, se mi chiedete perché, sicuramente sembra quasi forte da dire, ma è perché è il primo che porta il ragazzo, che porta il capofamiglia ad andare in ricevitoria a comprare gratta e vince, ad andare davanti alle macchinette che le troviamo ormai ovunque. E poi sicuramente il soggetto che cade nel gioco e che quindi perde quello che è la visione quotidiana della sua realtà, sicuramente va aiutato. Quello che si crea forse nei ragazzi è proprio questa speranza illusoria, no? Quindi proprio illudere, proprio come per entrare nel gioco proprio. E poi si forma quest'altra forma, che è l'altra, quella del deludere, cioè di uscire dal gioco, che diventa sicuramente una forma di dipendenza e che quindi è difficile, è una dipendenza senza droga. Non so se già queste cose sono state dette, sto arrivando adesso e mi scuso, però sicuramente questa forma di dipendenza, questa forma di attrazione, perché poi è un uscire dai problemi, non dico soltanto tra i giovani, perché oggi noi ci soffermiamo sui giovani perché per noi diventano una risorsa sia per il nostro presente perché per il nostro futuro, ma non dimentichiamo che ci sono anche tante mamme di famiglia, nonché anche tanti papà, e che di questo problema viene vissuto nel sommerso. Spesso ci siamo incontrati con il CERT, in quanto fa un grande lavoro su questo tema, e abbiamo collaborato. In questo momento soprattutto il distretto di 37, di cui Termini è il comune capofila, quindi di 10 comuni facente parte di questo distretto, che sono Cerda, Liminusa, Caccamo, Montemaggiore, Sciara, Scillato, Sclafani, Bagni, Trabia, spero di non aver dimenticato nessuno, comunque dovremmo arrivare a 10, stanno svolgendo delle attività di promozione e di sensibilizzazione anche all'interno delle scuole, con dei progetti che sono stati finanziati dalla legge 328 del 2000, una legge quadro sui servizi sociali. Sono quindi degli interventi previsti all'interno del nostro piano di zona. Questo perché il gruppo tecnico formato proprio da assistenti sociali, nonché il gruppo politico che è il comitato dei sindaci, attenziona a questo problema e dà una rilevanza importante. Perché? Perché all'interno delle scuole medie è stato previsto, insieme al CERT, c'è una collega del dottor Iacono che comunque collabora con noi e con un ente del privato sociale, si stanno facendo degli incontri fuori la media, viene denominato il progetto, con genitori, proprio perché è la scuola e la famiglia il punto centrale, il punto da dove si deve partire. Oggi nelle nostre famiglie non si parla più. Oggi nelle nostre famiglie ci si siede a tavola, si guarda la televisione o non si pranza più insieme, cose che comunque non portano più alla comunicazione, al dialogo. Il ragazzo è chiuso nella sua stanza davanti al computer, davanti a una, non lo so, davanti al videogioco, alla PlayStation, a tutto quello che volete, che sono sempre forme di dipendenza, e quindi questo uscire fuori dalla famiglia, questo uscire fuori dalla realtà. E poi abbiamo anche l'altro progetto, che è il progetto CEASA, che è un centro di educazione alla salute, proprio dove vengono trattati temi sulla dipendenza e non solo, con i ragazzi delle scuole medie superiori di tutto il nostro distretto, nonché delle scuole di Termini Imerese. Noi possiamo fare tanto, si può fare tanto, ma sicuramente una cosa va fatta, va fatto un lavoro di rete. Va fatto un lavoro di rete tra amministrazione, consiglio comunale, consiglieri, assessori e tutto quello di cui ne facciamo parte noi stessi. E qui io ringrazio il consigliere Gatto, che è sempre presente quando si trattano questi temi, in quanto ha una sensibilità molto spiccata, dico in questo senso, e perché si spende molto per queste cause. Però devo dire anche che ciò che bisogna creare proprio rete è tra noi, il CERT, e lo abbiamo fatto, il privato sociale e il territorio. Altro progetto che è stato finanziato con 500.000 euro, di cui noi siamo partner, è proprio un progetto per le dipendenze patologiche, il Peripatos, il cui bando è scaduto, penso, il 3 aprile, mi aiuti? Il 5 aprile, ecco. Il 5 aprile, di cui il CERT è uno degli enti fondamentali per questo progetto, perché è lui proprio che segue questi soggetti, e che spesso questi soggetti non vengono conosciuti proprio dagli uffici e soprattutto dai servizi sociali, in quanto non viene visto come un disagio sociale, che poi diventa un disagio sociale, ma per primo viene visto come disagio sanitario. E quindi in questo bel progetto, dove verranno coinvolti tanti giovani, come inclusione sociolavorativa, perché crediamo che nel momento in cui il soggetto deve essere aiutato, lo possiamo aiutare soltanto con l'inclusione sociolavorativa, perché dà dignità all'uomo e quindi dà sicuramente l'impegno. Questo vuol dire uscire proprio da questo circuito, che poi è una dipendenza a tutti gli effetti senza droga. Bene, assessore, volevo fare una domanda. Io trovo qui sul sito del comune la presentazione di un'associazione, l'associazione Alagisi contro i rischi della dipendenza del gioco. Può dirmi qualcosa in più? Perché ho letto varie cose, però sono rimasto un po' colpito da questo. Poi le dico il perché. Quali sono gli obiettivi dell'associazione? Perché ho trovato vari documenti, ma non sembra spiegato un po' così. Tra gli obiettivi della... Io lo sto conoscendo proprio per questa collaborazione che stiamo avviando con questo progetto, dico. Uno degli obiettivi è sicuramente il prevenire, nonché sensibilizzare la comunità a questi problemi, che sono proprio quelli della dipendenza del gioco d'azzardo. Però, assessore, mi scusi, può essere che sbaglio ed è semplicemente un caso di omonimia. Qui dice che dell'associazione possono fare parte psicologi, medici, psicoterapeuti, eccetera. Però presidente dell'associazione, ripeto, a meno che io non sbagli, dovrebbe essere uno dei proprietari di un centro scommesse, e che ha presentato da poco un altro centro scommesse che è l'Imeros Casino, proprio un centro scommesse online. A meno che non si tratti di un'omonimia, che ovviamente è possibile, mi sembra un po' strano, perché si fa riferimento comunque al nome dell'associazione. Sinceramente mi trova impreparata in materia, in quanto pensavo che era uno dei partner del progetto, forse quello. No, ma dico, ripeto, lo metto sempre le mani avanti. Ed è sul sito del comune di Termini Imerese? No, il sito del comune, se non lo sa lei, ci sono comunque, c'è il documento e la presentazione. Mentre da un'altra parte trovo lo stesso nome, c'è effettivamente un secondo... secondo nome, ma il secondo nome del soggetto, io non è il presidente che è il presidente, però sembra un po' strano che lo stesso, ci siano due omonimi, che uno gestisce 200 scommesse e uno invece fa. Io penso che sarebbe una riflessione da avviare con questo soggetto, che fa parte di tutte e due, in quanto un'incoerenza, sì, proprio mi sembra un po' strano, cioè, però dico, io ve lo sto dicendo. Ho detto, metto le mani avanti, non so se si tratti di un informazioni, perché di un omonimo, probabilmente spero sarà che un no. Omonimo sarà un soggetto che comunque ha problemi già di suo, perché se si apre un centro scommesse e poi porta avanti la terapia per curare soggetti che vanno nel suo locale, è un circolo, dico, vizioso che si avvia, dico. Sì, c'è un conflitto di interessi, un conflitto di interessi notevole. Io non lo so, però ve lo sto dicendo. No, hai fatto bene ad attenzionarlo in maniera tale che il presidente dell'associazione alla GISA vuole replicare, siamo qui, ma non semplicemente un'omonimia, quindi non, pensavo che era il progetto questo qui, uno dei partner, in quanto c'è anche il bando di Peripatos sul sito, quindi pensavo che ti riferissi a quello. No, però prenderemo altro, le dovute qui, informazioni. Va faccio bene. Pure la foto. Per quanto riguarda invece la nostra proposta, vuole istituire una regolamentazione sull'apertura dei centri scommesse intorno a un raggio di metri dalle sì, scuole. Sì, questa magari è una proposta interessante di cui se ne può discutere, che potremmo portare in consiglio comunale per l'approvazione e comunque per la regolamentazione. Va bene, assessore, io l'altro giorno abbiamo fatto la diretta per la nuova istituzione della consulta giovanile. Perché non inserirlo anche anche in programma una campagna di sensibilizzazione da parte della consulta giovanile per le scuole. Ma sicuramente la consulta giovanile ancora sta per nascere, lo avete visto anche voi l'altra volta, siamo ancora all'inizio con lo statuto, la lettura dello statuto deve andare in consiglio comunale, sicuramente ragazzi che sono armati di tanta buona volontà e proprio questi giovani che per noi adesso sono diventati una risorsa, sicuramente per il nostro territorio, fra i tanti temi che verranno trattati hanno deciso di fare diversi tavoli, quindi ci sarà anche un tavolo che riguarderà il sociale e quelle che sono le problematiche sociali e quindi nulla toglie che ci può essere anche una giornata degli incontri, un seminario, delle tavole rotonde proprio che trattino il problema della dipendenza. Va bene, Antonio Gatto, l'ultima domanda, poi insomma possiamo anche diciamo gli ultimi interventi possiamo chiudere. A Termini sono stati sequestrati 9 apparecchi illegali recentemente dai carabinieri, ma c'è controllo, che tu sappia ovviamente non se ne può occupare il comune, un controllo vero su questi esercizi che aprono? Io non, ovviamente non voglio dire che tutti sono illegali, però questo è il dato di fatto che esce fuori dalla possiamo dire carabinieri. Con estrema tranquillità che in Italia, non a Termini, ma certo, no, vabbè, ovvio. Ecco, il giro lecito è di 70 miliardi di euro. Quello è lecito, non credo che addirittura mi dico che forse anche più alto, quindi dico a mio avviso si potrebbe fare una cosa come comune, assessore, vediamo se possiamo dare qualche risposta. Per esempio anche là i vigili urbani durante il giorno potrebbero girare anche per i tabacchini e vedere se ci sono dei giovani seduti lì alle slot machine e sanzionare la ricevitoria o i tabacchi che permettono ai ragazzi di giocare, perché secondo me ce ne sono molti ragazzi in queste camere oscure che si vedono all'interno dei tabacchini. Ma noi diamo locali. Una notizia in anticipo, indagheremo anche con telecamera nascosta come le Iene, ce le gireremo un po' tutti appena il linciaggio per vedere se effettivamente i minorenni giocano senza controllo. Questo secondo me è una cosa che si può fare a livello di prevenzione. Io non credo molto nel proibizionismo, perché dico va bene, bisogna inibire i locali che hanno le slot machine a 500 metri dalle scuole, però dico fondamentalmente poi anche con l'iPhone tu ti colleghi a scuola e puoi giocare al videopoker. È un segnale. Quindi però il segnale, sai, potrebbe essere soprattutto, come la vedo io, sempre nella prevenzione. Ecco, e là la consulta giovanile secondo me si potrebbe attivare in tal senso. Si può, le pubblicità regresso, no? Che tanto ci fanno ridere, che poi fondamentalmente sono importanti, che ci aiutano molto a riflettere. Perché le scuole, anche ecco, l'amministrazione comunale può fare un bando di gara per una pubblicità regresso fatta dalla consulta o fatta nelle scuole e alla fine, no? Pagare noi la sponsorizzazione. Credo che questo si potrebbe fare una bella campagna di prevenzione dove alla fine i giovani si sentono messi lì in prima linea. Ecco, gli diamo un'autorità che realmente loro meritano e giocando, perché fondamentalmente quando va a fare una pubblicità al regresso ci giochi su, studi la materia, però ecco, in maniera ironica la porti avanti. E credo che qualche padre di famiglia, no, che alla fine vede la pubblicità al regresso fatta dal figlio, si possa soffermare un attimo, pensare e dire: ah, guarda, sono veramente un cretino. Dico. Dottor Iacono, prima dell'intervento una replica. C'è un ragazzo che ci scrive, dice: qualcuno dica al dottor Iacono che io sono stato anche più di 14 ore al PC in un giorno e sono un dottorando in una delle università più grosse d'Europa. Mi sa che il problema non è questo. Sì, prego. A lei. Io le faccio tanti auguri. Il problema non è lei, il problema è la persona, quindi non lei. Perché io quando parlavo davo dei numeri, nel senso che forse sono impazzito, no? Ma evidentemente se ci sono 700.000 persone che hanno problemi seri e quindi si arriva a frequentare un servizio di dipendenze patologiche o finire anche in una comunità o finire anche sotto farmaci, perché uno degli aspetti anche deleteri delle dipendenze da internet è legato alla depressione. Le do un dato. Ed è un dato termitano questo. Il 28% dei ragazzi che abbiamo intervistato teme che la vita senza internet sia vuota, noiosa e senza gioia. Stiamo parlando di ragazzi tra i 12 e i 21 anni, cioè ancora, come dire, nel fiore, no, della vita. Quindi non è il caso specifico, uno potrebbe stare anche 52 ore, 152 ore, 1152 ore. Quindi il problema non è questo, noi non siamo tutti uguali, siamo diversi. È proprio questa diversità che talvolta ci può portare ad alcune problematicità. Allora il problema è di stare un po' tutti attenti. Poi c'è appunto chi scala l'Everest e chi non riesce a salire il gradino. Dobbiamo stare molto attenti. Quando io parlo di problemi di questo genere, sia del gioco d'azzardo che della dipendenza da internet, sto parlando di ansia, di depressione, di disturbo borderline, di personalità. Quindi parliamo di qualcosa di un po' più serio. Un'altra cosa. Noi stiamo completando una seconda ricerca per quanto riguarda dipendenze da internet e pensavamo di pubblicare il lavoro eccetera, ma sarebbe bello anche per esempio inviare magari anche con il comune, vedere un po' anche con il distretto eccetera, dei Deplan piccoli alle famiglie, in modo da dire: tuo figlio sta 14 ore davanti al computer a 12 anni? Allora lì c'è qualche cosina che non va, perché io penso che un ragazzo dovrebbe fare sport, dovrebbe uscire, incontrare degli amici, la dico anche brutta, farsi anche una scazzottata, no? Ma in qualche modo avere un legame con qualcuno, una relazione con un altro, sentire l'odore dell'altro, no? Avvicinarsi, accarezzarlo, anche farsi dare anche, ripeto, anche un calcio. E ma ci sta. E dico, ci noi sta. Siamo cresciuti così, perfetto. No? Allora, infatti si vede il risultato. Il 20% della nostra popolazione rimane attaccata. Qua ce l'ho qui davanti, preferisce rimanere a casa piuttosto che uscire e vedere gli amici. Per me è un dramma, perché significa che il 20% è una cifra. Le do un dato: la schizofrenia nella popolazione mondiale è all'1%. Se parliamo del 20% della popolazione, questo è un dato, un 1530 ragazzi che riguardano questa ricerca, è un campione italiano, quindi non è un campione termitano. È un numero enorme, quindi evidentemente sta succedendo qualcosa e dovremmo tutti quanti, ecco perché parlavo di comunità educante in questo senso, dove tutti quanti facciamo qualcosa, così anche la radio, che in questo momento sta facendo qualcosa di importante in quanto comunica e diamo non solo dei dati, no? Quindi dovremmo darci tutti quanti una mossa. Va bene, allora diciamo, possiamo dire che l'amministrazione ha preso l'impegno di studiare il problema e fare almeno una campagna sulla prevenzione nelle scuole. Possiamo dirlo, assessori, o no? Sì, no, perché ho visto avvicino. Da studiare qua sembra quasi che stiamo iniziando adesso a studiare. No, no, no, nel senso a studiare una campagna di prevenzione. Sulle, come scusi, scuole. Non la sento. Se mette le cuffie, sì. Potrei dare. A studiare una campagna di prevenzione all'interno delle scuole, questo intendevo dire. Non a studiare la materia. Ripeto, noi la campagna di prevenzione delle scuole la stiamo anche facendo, l'abbiamo fatta più volte. Dico, non è la prima volta che si fanno progetti proprio di promozione, di sensibilizzazione contro le dipendenze, qualsiasi forma di dipendenza. Dico, ripeto, stiamo anche portando avanti questo bel progetto insieme all'Operato Calabria, che voi sapete bene che è un ente che si occupa di dipendenza da tantissimi anni all'interno delle scuole, con i ragazzi delle scuole medie e i loro soprattutto genitori, quindi le loro famiglie. Però prendiamo l'impegno sicuramente di portare, di promuovere ancora e sempre di più, considerato che alle dipendenze che c'erano in passato se ne sono aggiunte nuove e ogni giorno se ne aggiungono sempre di esatto, più. Esatto, no, io ricordo che quando si facevano le campagne di prevenzione antidroga erano a lungo termine. Sì. Quindi la mia aspettativa era di non fare una cosa, ad esempio una brochure da diffondere e basta, e poi i ragazzi no, buttano, no, ma sicuramente una campagna centrata a lungo termine, con affrontando tematiche ben specifiche. Se posso intervenire, sì, un attimo, cioè io penso che il problema, cioè, dipende anche dal fatto che forse, dico forse, qui lo dico e qui lo nego, questo effettivo problema non è vissuto come se lo fosse, cioè questa non sembra che sia una dipendenza. Chi ne è affetto, come tutte le dipendenze, non lo riconosce. Sì, il dottor Iago non credo che voglia intervenire sul punto. Sì, un paio di cose. Una è importante, perché volevo comunque dare un paio di dati. Questi, noi trattiamo come servizio ASP, perché non ci chiamiamo più, sì, più USL, anche le patologie di gioco d'azzardo. Poi esiste anche a Palermo un centro specializzato. Io lo do questa informazione per comunque chi vuole

Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza. Torniamo in diretta, finalmente negli studi di Radio Centrale. Abbiamo concluso la nostra intervista all'assessore Amoroso, al consigliere Antonio Gatto, e ringraziamo soprattutto il dottor Michele Iacono. È rimasto con noi Fabio e Claudio. Fabio, insomma, che ne pensi? Ti è piaciuta questa campagna? Molto. Mi ritengo soddisfatto. Tempo fa, non so se l'avete vista anche voi alle Iene, hanno fatto il servizio sul video poker. Sì. Beh, ne fanno tanti. Qualcosa di allucinante, cioè... Quando tu vai a giocare in un sito di videopoker, c'è uno da un'altra parte che gioca con le carte scoperte. Esatto, e ti fregano. E tu, è possibile pure che in un tavolo di 8 persone sei soltanto tu la persona reale, tutti gli altri 7 sono soltanto... Sì, ogni tanto ti fanno vincere per... Ti fanno vincere. Beh, io, tra l'altro, devo dire... faccio i complimenti all'Onda in Onda che per una volta non ha fatto troiate, diciamo, in radio, scusando la parola. Ci fanno i complimenti. No, allora, scusa, quando dici che facciamo troiate, per noi è un complimento, perché l'Onda in Onda nasce come programma di divertimento. Fuori dall'Onda in Onda si interroga sui problemi della città, e quindi certo, effettivamente dice: ma perché io vado in radio a fare questo? Ci sono dei problemi. Quindi insomma, ecco che il massaro è per l'audience, perché dici: se poi tutti hanno problemi, non si ascoltano la radio, quindi noi risolviamo i problemi per avere audience. Allora sì. Andrea purtroppo soffre di questo problema di completamento di frasi. Di solito c'è Antonio che però la completa, che quando la trasmissione diventa non seria, io soffro di questo problema. Quando è seria sono tranquillo. Quando è seria fai tipo il motorino Dai, oggi c'è stato anche spam. Oggi c'è stato uno spam di quelle di quelli importanti. Veramente sì, sì, sì, sì. Va bene, allora io direi intanto di ricordare di ringraziare tutti quelli che hanno seguito la puntata. Anche se non siamo in chiusura, vi ringrazio lo stesso, perché diciamo che per chi è abituato al bacino al bacino di utenza dell'Onda in Onda è stata abbastanza è stata una puntata abbastanza seria, quindi ringraziamo chiunque ci abbia voluto seguire e chi grazie. E chi solitamente non ci ascolta e si è collegato solo per ascoltare la puntata. Che regia. Io ho tutti gli effetti adesso. Che ne so, per esempio, sparami. Ti sparo. Hai visto? È una figata. Adesso. Volevo ricordare invece al pubblico che solitamente ci ascolta l'Onda in Onda, che il palinsesto della centrale non finisce qui, perché subito dopo ci sarà Claudio e Riccardo con il loro Positive Vibration. Sì, Positive Vibration continua anche questo mercoledì, insomma, dalle 21 alle 22:30. Questa sera ci accingeremo a presentare un altro gruppo della scena reggae italiana. Cioè, i Bubu Gramba? Non sono i Bubu Gramba. Questi nomi, i Gronzi? No, in realtà è un gruppo che non ha grandi vissuti passati, nel senso che è un gruppo proprio emergente, recentissimo. Sono i Rebel Roots. Che hanno prodotto proprio il loro primo disco, è uscito a febbraio quest'anno, quindi insomma, che si chiama Radice Ribelle. Esatto, e quindi insomma conosceremo Massimo, che è il cantante dei Rebel Roots. Però per le prossime settimane, insomma, state in contatto, perché ci saranno tanti altri grandissimi nomi. E qui Alessandro, che è uno che il reggae lo segue, insomma, non mettermi wow, ma lo seguo un wow un po' più. No, perché guarda, insomma, ci saranno Rasteweld, ci sarà Fido Guido, ci saranno che cazzo, cioè Fido Guido, che l'ho visto. Caro Andrea, Fido Guido è uno che tu dovresti ascoltare bene, perché è molto sensibile, è di Taranto, canta praticamente a proposito del proposito dell'inquinamento causato dall'Ilva proprio a Taranto, sì. Insomma, ecco, è molto attivo in merito, quindi insomma è forse per la prossima settimana vediamo anche di avere un Madaschi, Paolo Baldini, insomma. Madaschi è il dubmaster, il controller degli Africa Unite, quindi insomma vabbè, stai sforando il mio programma, sì. Io vorrei dire, ma io mi faccio la mia marchetta, la tua marchetta. Gratis, ricordiamo tutto gratis. Vabbè, sì, infatti, no, perché poi non è che dici mi passa la percentuale, sì, che sì. Ma percentuale di che, scusa? Ricordati che io posso sempre fare sbam, Okay. Sbam. Sì. Anzi, mettimi qualcosa di pathos. Mi manca lo sbam. No, questo è il cuore. È più pathos di questo. Più pathos di così. Va bene, allora noi ci ascoltiamo il prossimo pezzo. Andrea è sempre un porno divo. Ma perché io poi vedo, scusa, io poi ti devo fare una domanda, scusa, perché io mi trovo nella playlist in una canzone con il titolo Hanno ucciso l'uomo Rhino. Sì. Noi siamo una trasmissione seria, Andrea. Allora, volevo presentare. Ma sono gli 883. No, allora volevo presentare quello che è l'iniziativa che ha fatto Rockit. Rockit è un sito di musica. Hanno fatto questa. È un po' una vaccata, effettivamente. Però Rockit ringrazia. Noi salutiamo gli amici di Rockit per quelerarci. Cos'era quel La paccata. Ah, la paccata. Non ero io. Hanno fatto questa iniziativa che si chiama Con due Deca, che riprende spunto dalla canzone Con un Deca degli 883. Sì. Hanno fatto coverizzare dei gruppi indipendenti, non proprio tutti famosissimi, le canzoni degli 883, un po' a modo loro. Questa qui è l'unica che è venuta meglio, devo dire la verità. Però io ora mi chiedo, ed è scusami. Intanto aprite il portone, grazie. Dopodiché, io voglio capire, cioè, fanno coverizzare una canzone degli 883 ad un gruppo che si chiama Numero 6. Cioè, nel senso, quelli sono 883, loro 6, un po' di meno. Vero? Sì, vabbè, 883 veniva dalla moto. La traccia è la numero 6. Ma la moto Harry Davidson 883. Ovviamente nel CD. Nel CD dico. Non c'è una traccia numero 1, ci sono soltanto tracce numero 6. Numero 6, ovvio. Però questa, nella compilation di Rockit è la numero 8, quindi no, è lo sbagliato. Vabbè, vai. Allora ci ascoltiamo questa cover. È chiaramente un errore discografico, insomma, vero? Sì, è ovvio. Sì, ma poi comunque torniamo con la musica seria. Va bene, quindi ci ascoltiamo il numero 6. Dai, dopo c'abbiamo i Creedence. Gentle, locale sta suonando un blues degli Stones. Toschi individui al bancone del bar. No, vorrei dire che però, ecco, in studio la cantano tutti. Quindi, gli 883, gli 883. No, ma dai, ma questa è carina. Questa, ragazzi, questa anni, spacca. Gli anni anche è interessante. Ascoltiamo. Dritta, sicura, si mormora che i cannoni hanno fatto ben. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Polizia, il commissario dice che volete che sia, quel che è successo non ci fermerà, il crimine non vincerà, ma nelle strade c'è il panico ormai, nessuno esce di casa, nessuno vuole guai, e dagli appelli alla calma in TV, adesso chi ci crede? Io. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Questo erano i numero 6, ovviamente. Beh, insomma, la canzone potete scaricarla la compilation di Rock It dal sito rockit.it. Lo faccio subito. Che non, cioè, si offendano i numero 6. No, che poi tra l'altro, cioè, la cover è, devo dire la verità, è carina ed è la meglio di della compilation che c'è. Io non oso immaginare il resto. No, il resto è terrificante. No, tra l'altro dico gli 883 perché che se ne possa dire, insomma, sono uno dei gruppi che mi hanno accompagnato nella mia infanzia. Tutti, dai, su. Beh, ma ci sono delle tracce comunque anche Sei un mito, anche Come mai, romanticissima dei vecchi tempi, gli anni. Oh, le sa tutte. Oppure anche Rotta per casa di Dio, insomma ci sono dei pezzi interessanti, devo dire, tra l'altro dall'album Nord Sud Ovest Est, che forse è il più riuscito, tipo. Però, beh, sì. Abbiamo il regista ormai impazzito con i suoni. Quindi, insomma, vabbè, numero 6, facciamoli lavorare. Però, sì, cioè, no, facciamoli diventare un po' numero 7, 8. Poco a poco, insomma, cresceranno. Va bene, io volevo dire invece che volevo dare qualche appuntamento per il sabato. Soprattutto mi ero scordato, abbiamo iniziato subito con la puntata, di salutare Antonio, che è a Milano e quindi oggi non è stato con noi. Tu ma dimentichi di salutare il tuo co-conduttore. Secondo me mercoledì non viene più. Cioè, non l'abbiamo nemmeno salutato all'inizio. Cioè, stile, no, che ci proprio siamo fregati altamente. Antonio, capire, io mi dissocio dal non saluto di Andrea Massaro. Io non mi dissocio. Ha soltanto detto in diretta Andrea Massaro, Antonio Panzica, però l'ha citato. Ma sì, ma gli fai capire che non senti la sua mancanza così. No, cioè, vabbè, ma c'è, Antonio, abbiamo, si è messo una fotografia tua qui accanto. Non si può vedere la webcam perché è messa in un angolino con un lumino acceso, sì, per ricordarti. C'è proprio la candela che sì, si sta quasi squagliando. Va bene, allora, per chi avesse voglia di musica sabato sera, diamo alcuni consigli. Io ne do uno subito perché il numero 6, dove? Il numero 6 a Carrapipi. Al numero 7 di Palermo. Ah, interessante. Tutti i numeri 7. Sì, ah, ecco. Cioè, ogni numero 7 c'è uno. Ecco. Uno abbiamo uno dei membri del numero 6 in ogni numero 7 di Palermo. Sì, in ogni numero civico c'è un membro della band. Fantastico. Quindi saranno tipo 2 milioni. Questa conversazione è di un livello aulico allucinante. Stiamo arrivando. No, invece c'è Caparezza alla terza edizione del Lit Week, il più grande festival di musica italiana in America, esibendosi a New York, LA e il Miami, eh? E continuerà la sua nuova emozionante produzione i concerti, insomma, al Palacatania c'è Caparezza. Insomma, ma non era a New York? Sì. Però sta facendo tutto sto giro, no? Perché? E poi alla fine arriva a Catania, 17,30€, posto unico, ora 21,30€ al Pala Catania. Sfiga, ovviamente Catania. Aggiungerei, dico. Anzi, no, dico, 17€. Sì, sì. Sfiga, ragazzi. Sì. Ma invece per chi ha voglia, ma Caparezza con tutta la band, immagino. Ah, certo, direi sì. Invece concerto, e con certo, tutti i capelli, certo. Ah, fantastico. Con tutti i capelli, sì, per forza. Invece Aia mi si è incastrato l'occhio. Io chiedo la fine di Gaia in chiusura di questa puntata. Attenzione che da Andrea gli si è incastrato l'occhio nel sopracciglio. Ora io vorrei sapere come fa. Scartavetrato l'occhio, non è ambientato il sopracciglio, si è girato su se stesso. No, vabbè. Sei alien, sei alien. E che dopo una puntata troppo seria le discussioni non possono essere date. Assolutamente. Invece a Parcento? Non so perché ho detto a Parcento, volevo dire che a Palermo. Ah, era Palermo. Sì, cioè, Parcento è totale. A Palermo sabato sera ci sono i Jesus Sons Concert. Ah. Come non mancare? Gesù sì. Senza concerto. Cioè no, così. No, no, no. I figli di Gesù in concerto. Ah, Gesù. Ah, ok. I figli di Gesù. Okay. che fanno cover band di brani anni 70 e 80, scusate, come Stevie Wonder, Pink Floyd, Depeche Mode, Eagles, Alan Parsons Project, Beatles, Michael Jackson, per farvi ballare e divertire all'impazzata. Alan Parsons e Project sono due diversi, da come l'hai detto. Sì, giusto, no, no, è la stessa cosa, però ho staccato con la... Invece, ed è alle 22, scusate, alle 22.45, ingresso libero al MOI. Voglio gli Alan Parsons adesso. No, non ce li ho. Ma il MOI dov'è? Il MOI non lo so, ve l'ho andato a cercare, oppure andate su Ballarm e lo vedete dov'è. E va bene, io direi che siamo quasi in chiusura, ci ascoltiamo l'ultimo pezzo. No, no, no, dai, sì. Quello che ti ho chiesto. E non ce l'ho, quello che mi hai chiesto, no, invece ci ascoltiamo, ti dico io cosa ci ascoltiamo. Beh, ma c'è lo spazio per due pezzi? Non credo che ci sia lo spazio per due pezzi, però io ti dico di mettere quello là. Questo? No, giù, no, giù, giù, questo. No, no, non trovo giù. Ancora giù. Quello su? Quello su. Ah, no, questo pezzo è bellissimo. Allora, questo pezzo è fantastico. Dovrebbe, il titolo di questo pezzo è Trattino. Purtroppo il nostro lettore non ha letto come l'ho salvato io. Va bene, e dovrebbero essere gli SDC con Thunderstock. Esatto. We'll be right back. sì. E rientriamo in studio. Questa è l'Onda in Onda su Radio Centrale FM Italia. Andrea Massaro in studio. Sei uno schifo, mi fotti l'entrata e mi sfondi le orecchie. Maledetto. Tu mi sbagli i volumi, dirà, che vuoi da me. Comunque, qui in acquario si disquisiva sul fatto che dei gusti musicali... No, ma io l'ho dir sempre poco, detto, io mi dissocio anche dai gusti musicali dell'Onda in Onda. Io mi chiedo, tu sei a casa, dopo una giornata di studio magari, ti metti nel letto per rilassarti, ascolti questo. Certo. Ma io, guarda, l'unica canzone che ho portato, per metterla, ho portato Rasta Love. Ovviamente, cosa vado a portare? Scusa. Ma almeno una canzone decente, dico. Non dico che sono brutto. Cioè, però... mi stai dicendo che gli SDC non sono decenti? No, assolutamente. Stiamo scherzando, no. Anzi, mai. No, chiudiamo. Luoco. Vabbè, no, niente, tanto per dire. Va bene, siamo in chiusura. E quindi, niente, vi ringraziamo tutti quanti per averci ascoltato. Rinnoviamo l'appuntamento alla prossima settimana. Che è, insomma, il prossimo mercoledì è 25 aprile. Quindi, insomma, vedremo di tornare in onda un altro giorno. Io proponevo il lunedì. Non sì, so, sì, sì, no, torniamo in onda il lunedì. Quindi, il prossimo appuntamento è per lunedì. Quando? 23. 25 meno 2 fa 23. Sì, sì, sì. 20... ok, 23 aprile. Torniamo in diretta sia con l'Onda in Onda che con Positive Vibration e Feedback. Non si sa, penso di sì. Esserci sempre la stessa ora, sempre la stessa frequenza. Soltanto la prossima settimana, il lunedì. Poi sì, si ritorna sì, il mercoledì, ovviamente. Mercoledì. Non togliete le mani dalla manopola. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo tutti. Ci non togliete le mani dalla manopola? No, dalla manopola. Dico. La manopola. Vabbè, non togliete le mani. Insomma, rimanete con noi e noi ci ascoltiamo. Il Creedence Clearwater Revival e a seguire il Pan del Diavolo. Ciao e buona serata.